La gnot d'avril, la gnot simbrune, chiaris che stelis, chiare che lune, e ses ben bielis, c'è firmament, dut risplendent, l'aer quiet, dome ogni tanto un zefiret va svintulant, rosis e flors di mil odors, ie primavere innamorade, svole l'isere spandint rosade, cu la ciumiele parlata viele. Cidin, cidin, ben iul roiuz, ali vicin, son iu celuz, in dormidis, in tai lor niz. La gnoz in br-